la nostra età. Quante speranze non sono mai nate per colpa di mentalità. Chi ha camminato su fiori e pareri sfidando giudizi e follie. Chi ha preferito invecchiare in giardino curando le sue malattie. Quante possibilità verso la felicità, questa qui è libertà. Ballar.